Buonasera cari radioascoltatori e benvenuti ad un'altra puntata di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento, come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. In studio Annalisa e in regia Roberto Giava. Ciao Roberto. Buonasera. In collegamento Alessandra. Ciao Alessandra. Ciao Annalisa, buonasera Roberto e un saluto a tutti i nostri amici radioascoltatori, come sempre all'ascolto di Giro di Boa. Dunque, cari radioascoltatori, questa sera riprendiamo un tema caro a Giro di Boa, uno dei nostri, per così dire, filoni, quindi un tema che abbiamo già trattato sotto diverse prospettive in passato, il tema dell'immigrazione italiana in Belgio, dopo gli accordi tra Italia e Belgio del 1946, gli accordi sullo scambio tra carbone e manodopera. Ne parleremo tra poco in collegamento con un ospite, un regista italiano, Luca Vullo, autore di un film intitolato Dallo zolfo al carbone. Questo film verrà proiettato qui a Bruxelles venerdì della settimana prossima, il 13 novembre alle ore 20:30. Questa proiezione verrà appunto organizzata qui a Bruxelles dall'angolo dell'avventura. Angolo dell'avventura coordinato da Marco Carnovale, l'angolo dell'avventura è diciamo un circolo di amanti del viaggio, amanti dell'avventura, ci si ritrova per guardare film, spesso legati al viaggio, per guardare e discutere insieme su diapositive legati ai viaggi. Chi volesse maggiore informazioni sull'angolo dell'avventura qui a Bruxelles può contattare direttamente il coordinatore dell'angolo, Marco Carnovale, al seguente indirizzo email carno.polo@gmail.com. E dicevo quindi di questa proiezione che si terrà venerdì 13 novembre alle ore 20:30 alle Cercle des Voyageurs, questo locale qui a Bruxelles, in Rue de Grand Carme numero 18, vicino al Manneken Pis. Ma il programma dell'angolo questo mese è molto ricco, vi annuncio altri due eventi che ci saranno. Settimana prossima, mercoledì 11 novembre alle 20:30, ci sarà Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano di Eric Schmidt, recitato da Paolo Gaio. E ne approfittiamo, Alessandra, per mandare un saluto a Paolo. Senz'altro, perché come ve ne ricorderanno i nostri amici radioascoltatori, Paolo Gaio è stato un amico di Giro di Boa, nel senso che è intervenuto nelle nostre puntate diverse volte ed ogni volta ovviamente che lui presenta un'opera teatrale, visto il suo hobby, come ben ricordiamo, non facciamo che appunto annunciarlo e augurare a tutti di poterlo andare a vedere. Io purtroppo non potrò, essendo giustamente all'AIA, però mi raccomando Annalisa, non mancare, perché sarà sicuramente molto interessante. Sì, sicuramente, quindi cari radioascoltatori, ancora mercoledì 11 novembre alle ore 20:30, Monsieur Ibrahim e i fiori del Corano di Eric Schmidt, recitato da Paolo Gaio, monologo adattato dal romanzo omonimo del 1999 di Eric Schmidt, un drammaturgo e scrittore francese che vive a Bruxelles, le cui pièce teatrali sono tra le più rappresentate sui palcoscenici europei. Altro evento organizzato dall'angolo dell'avventura a Bruxelles, sabato 14 novembre, Gli ultimi assiri di Robert Allot, un altro film, un altro documentario che parla appunto degli antichi assiri, della loro storia, della loro presenza. Ancora una volta, quindi cari radioascoltatori, vorrei ricordare questi eventi organizzati dall'angolo dell'avventura a Bruxelles, coordinatore Marco Carnovale, scrivetegli al seguente indirizzo email per maggiori informazioni o per iscrivervi alla mailing list carno.polo@gmail.com. Faremo tra pochissimo una pausa musicale, prima di fare la pausa, quindi il tema di questa sera sarà quindi un'intervista con Luca Vullo, regista di questo film, di questo documentario, Dallo zolfo al carbone, la storia e le sofferenze degli immigrati siciliani in Belgio, dopo gli accordi tra Italia e Belgio del 1946, questa storia e sofferenze quindi raccontate da questo giovane regista con cui parleremo tra poco. Alessandra, facciamo ora una piccola pausa musicale, poi ritorniamo in studio e avremo Luca Vullo in collegamento. Cari radioascoltatori, bentornati all'ascolto, Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Alessandra, siamo tornate in linea dopo la pausa musicale. Sì, esatto, e come dicevi tu, questa sera parleremo di emigrazione, dell'emigrazione italiana in Belgio, un filone che, come tu ricordavi prima della pausa musicale, Giro di Boa ha già trattato diverse volte. Ricordiamo, l'ultima volta l'abbiamo trattato in aprile, quando intervistammo Urbano Ciacci, presidente dell'Associazione degli ex minatori di Marcinelle. Questa sera in collegamento abbiamo un ospite che tra poco Annalisa ci presenterà, col quale cercheremo di affrontare il tema dell'immigrazione italiana in Belgio da una diversa prospettiva, nel senso che parleremo più approfonditamente dell'immigrazione siciliana in Belgio che si è avuta in seguito agli accordi del 1946, il cosiddetto patto italo-belga, per cui secondo alcuni lo Stato italiano vendette per un sacco di carbone parte della gioventù italiana. L'iniziativa del patto italo-belga fu un'iniziativa del primo Presidente della Repubblica Italiana, Einaudi, fu allora ritenuta di notevole vantaggio e prestigio, in quanto da un lato forniva a molti italiani la certezza di un lavoro e dall'altro garantiva al Paese una fonte energetica sicura per l'avvio di un processo industriale che riuscisse a sollevare l'economia nazionale, perché ricordiamo nel 1946 l'Italia usciva da una guerra disastrosa, di conseguenza l'immagine del Paese era quella di una nazione sconfitta. Ma vediamo ora di vedere magari con il nostro ospite. Annalisa, ci vuoi presentare l'ospite? Sì, come si diceva in apertura, abbiamo in collegamento dall'Italia Luca Vullo. Luca è regista di Dallo Zolfo al Carbone, un film che, come dicevo in apertura, verrà proiettato venerdì 13 novembre qui a Bruxelles alle 20.30 a Le Cercle des Voyageurs. Luca, ci senti? Vi sento, sì. Buonasera a tutti. Grazie, benvenuto a Radio Alma e benvenuto a Giro di Boa. Una nota di introduzione, quindi prima di cominciare, prima di iniziare a farti qualche domanda e a farti presentare appunto questo film. Luca Vullo nasce a Caltanissetta nel 1979, inizia la sua formazione cinematografica a Bologna presso il DAMS, il Dipartimento di Arte, Musica e Spettacolo, frequenta diversi laboratori e workshop e collabora all'interno di numerosi set. Torna poi in Sicilia, il suo paese natale, e qui parte il suo primo viaggio da regista narratore con Cumu Veni Sicunte, il racconto socio-antropologico di una città e dell'arte di arrangiarsi del suo popolo, in cui l'occhio del regista incontra i mestieri da strada inventati per portare avanti la famiglia e gli artisti emarginati della società locale che manifestano pubblicamente le proprie opere e il proprio malessere. E appunto, come si diceva in apertura, con questo film Luca ha rappresentato la storia e le sofferenze degli emigranti siciliani in Belgio, quindi arrivati in Belgio dopo gli accordi appunto sullo scambio tra carbone e manodopera ricordati da Alessandra. Luca, innanzitutto una prima domanda: come è sorta l'idea di realizzare questo film, quindi come ti è venuta l'idea di affrontare questo tema? Sì, la nascita dell'idea è arrivata quasi naturalmente, perché vista la mia passione per il documentario e la mia formazione documentaria, io sono cresciuto in una zona di miniere, perché Caltanissetta, la provincia di Caltanissetta, è tra le province più produttive di zolfo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, e quindi basta farsi una passeggiatina in giro per le mie zone per capire che c'è stato un impatto devastante da parte di questo fenomeno, insomma, industriale, e non solo a livello geografico, comunque ambientale, ma anche a livello sociale, perché tantissimi paesi della provincia sono quasi totalmente disabitati e sono quasi tutti trasferiti in Belgio o Francia o Germania, ma la grossa percentuale, insomma, di emigrazione si è concentrata in Belgio, per cui la mia curiosità era per quale motivo fossero andati tutti in Belgio in quel particolare periodo, e non in un altro paese, ad esempio, no? Facendo delle ricerche, un'attenta ricerca storica, mi sono reso conto che esisteva questo patto segreto tra l'Italia e il Belgio del 1946 che, come dicevate bene prima, permetteva all'Italia di far lavorare tante persone che erano comunque in situazioni economiche veramente disastrose. Dall'altro lato il Belgio aveva una manodopera a un costo molto basso e quindi risolveva un problema che i belgi, si dice, i belgi o i belga? I belga o i belgi non volevano più fare, quindi è un po' quello che ciclicamente succede poi nella storia. Adesso in Italia succede una situazione molto simile e quindi ho voluto raccontare una storia del passato per ragionare anche sul presente, perché credevo fosse importante poter vivere una storia come quella dell'emigrazione italiana e che più ci tocca da vicino per comprendere l'emigrazione di altri popoli e quello che sta succedendo oggi. E Luca, e quindi come hai diciamo proceduto nella realizzazione del film? Hai intervistato quindi vecchi, anziani minatori, quindi che erano venuti dall'Italia al Belgio, hai raccolto le loro testimonianze, immagino tu sia venuto qui in Belgio. Sì, il documentario è quasi totalmente girato in Belgio e ho ricercato un po' tutti i posti nevralgici, insomma, più rappresentativi di questo fenomeno, intervistando parecchi minatori, insomma, siamo quasi sulla sessantina sicuramente, e a Campione ho cercato di coinvolgere un po' i minatori di tutta la nazione, quindi da nord a sud, per capire anche le differenze e quali erano le analogie. È stata una ricerca molto interessante dal punto di vista umano, sicuramente credo che sia stata la cosa più forte che ho potuto vivere, perché questa gente mi ha insegnato il vero senso del sacrificio, cosa significa fare un sacrificio per la famiglia, e quindi in primis credo che l'esperienza sia stata umana e personale e poi una ricerca che volevo raccontare al resto del mondo, insomma. Quindi sono andato in Belgio tramite le associazioni di siciliani che si sono ben ramificate in Belgio, ho avuto l'opportunità di conoscere diversi minatori nei vari paesini dove poi sono andato a girare. Luca, tu dicevi che è stata un'esperienza forte, molto forte, rispetto all'umanità che queste persone ti hanno trasmesso. Immagino che molti incontri siano stati anche commoventi. Io sono incuriosita dal fatto, questi sono tutti ex minatori provenienti dalla Sicilia, cioè sono italiani emigrati in Belgio. Cosa è rimasto della loro italianità? Si sentono ancora italiani, lontani dal loro paese dopo così tanti anni? Cos'è che gli è rimasto? Ecco, questo è stato un argomento trattato proprio nel mio documentario, ho dedicato proprio un capitolo chiamato Identità, proprio perché è un problema serio, nel senso che da una parte hanno mantenuto e cristallizzato determinati valori, determinate usanze, tradizioni che appartenevano al loro paese di origine. Dall'altro lato però vivono in un altro stato dove non sono i belgi o belga, sono i siciliani e quindi comunque hanno vissuto per tantissimi anni in quel paese come stranieri, e quando tornavano al paese di origine erano comunque quelli che erano andati in Belgio, quindi vivono una scissione di identità molto forte che li penalizza, li fa stare male comunque, no? Ma l'attaccamento alla terra c'è ed è molto forte, questo me l'hanno dimostrato in tanti, anche se paradossalmente non tornano più in Sicilia, perché non hanno più i parenti, non hanno più gli affetti primari, quindi è diventata una cosa lontana, tutta la famiglia è cresciuta in Belgio, tutti i nipotini sono in Belgio e non hanno più motivi pratici e affettivi per tornare giù in Sicilia, ma di sicuro resta un legame molto forte con la terra di origine. E paradossalmente questo legame è più forte per quelli che se ne sono andati rispetto a quelli che sono rimasti? Senza dubbio. Questo senza dubbio, perché c'è un minatore che dice una frase molto forte, dice l'Italia, chi ama veramente l'Italia siamo noi che ce ne siamo andati e non quelli che siete rimasti, perché ci manca. Questa è una frase che semplicissima, che però ha un significato molto importante secondo me. Noi non l'apprezziamo, noi la, in particolar modo i siciliani disprezzano la propria regione spesso per quello che succede, per quello che si dice in tutto il mondo, ma loro la amano profondamente, e la cosa interessante è che cercavano di insegnare ai propri nipotini il dialetto per non farlo perdere, per esempio, ciononostante i bimbi fossero a tutti gli effetti nati a Bruxelles o in altre città del Belgio e quindi parlassero il francese e l'inglese, per dire. Secondo te questo documentario, tu l'hai fatto con lo scopo appunto di ricordare, di non perdere la memoria di questo, di questa parte della Sicilia che è partita per il Belgio, appunto per lavorare, sì, nelle miniere di carbone, come dicevamo inizialmente, per cui appunto una memoria storica. Secondo te non può essere anche utile per far capire l'importanza della patria a chi è rimasto, rispetto appunto vedendo un minatore che l'ho visto anch'io questa parte che citavi tu prima, rotto dalla commozione, sì, piangendo, diceva, sì, è molto più importante per noi che siamo partiti rispetto a quelli che sono rimasti. Secondo te non può essere anche un aiuto, un insegnamento? Secondo me sì, proprio perché è proprio il loro sacrificio che ha portato comunque benessere alla nostra nazione, non so come dire, cioè grazie a loro noi ci siamo ripresi, loro e tanti come loro ci siamo ripresi da uno stato comunque di fame totale post guerra, quindi comunque sono stati dei gran lavoratori che ci hanno dato una spinta molto positiva, e in loro come dicevo prima, si mantiene totalmente un senso della tradizione, dei valori che ormai si sono persi, quindi fa bene vederlo sia agli adulti che anche ai ragazzi delle scuole, insomma, no? Infatti ho iniziato un percorso di proiezione nelle scuole, sia medie che superiori, proprio perché secondo me è importante ricordarsi queste cose e non vederla come un pezzo d'antiquariato. Luca, ci puoi raccontare una storia che ti ha particolarmente colpito? Una storia appunto una storia personale di una di queste persone che hai intervistato, che ti ha particolarmente colpito, che vuoi raccontare ai nostri radioascoltatori? Sì, ce ne sono tante, però me ne viene in mente una che è quella che veramente mi ha fatto venire la pelle d'oca subito, ed è la storia di un minatore che al primo giorno di lavoro, cosa che lui non voleva assolutamente fare, scendere in miniera, il suo primo giorno di lavoro è stato talmente drammatico che in un incidente ha perso un braccio totalmente e quindi stiamo parlando di un ragazzo di 18 anni all'epoca, ha perso un braccio ed è rimasto per tutta la vita comunque legato alla miniera, perché gli hanno dato un ruolo di ufficio perché non poteva fare altrimenti. In ogni caso immaginate con che tipo di shock mentale umano può avere una persona che al primo giorno di lavoro a 18 anni perde un braccio perché non c'era la sicurezza, perché non c'era nessuno che gli spiegava come si usavano gli strumenti e non c'era nessuno che controllava se funzionassero bene. Questa storia mi ha scioccato, ma la cosa che mi ha scioccato di più è stato il fatto che il figlio che era lì presente all'intervista non sapeva realmente perché il padre avesse perso il braccio, non gliel'aveva mai raccontato, e questo mi ha veramente stupito e ha aperto un capitolo, ecco, in me, ha riaperto una porta della storia, e cioè la storia della miniera per i padri era un tabù, quindi i figli non dovevano saperne nulla, dovevano stare bene, continuare a crescere la famiglia, ma i sacrifici che loro hanno vissuto non dovevano essere raccontati. E quindi in qualche modo io sono stato una sorta di ambasciatore, di filtro che ha fatto emergere delle verità per i figli che non sapevano realmente nulla della storia dei genitori. Luca, prima tu ci parlavi che il documentario è stato proiettato anche in alcune scuole. Questo sì. È un progetto che hai cominciato recentemente? O come... come si sviluppa? Allora, in realtà io ho cominciato dalla mia città, poi che è Caltanissetta, poi da lì devo dire che sono arrivate diverse richieste da parte delle scuole non solo siciliane, anche in Abruzzo, in Toscana, perché essendo un pezzo di storia che non è raccontato in nessun libro di storia, chi ha secondo me un docente che è un maestro che può avere un'idea di storia da raccontare ai ragazzi un po' più vera, ha trovato un documento utile, un documentario utile, non noioso, fruibile per i ragazzi per raccontare un pezzo della nostra storia. Quindi è cominciato un percorso, se vogliamo, molto alternativo, non programmatico, ma su inviti, che sta andando molto bene. Tra l'altro c'è stata anche un'iniziativa molto interessante da parte del Festival Cinema Ambiente con il Museo del Cinema di Torino, che mi ha inserito all'interno di un catalogo che loro faranno circolare in tutte le scuole del Piemonte, e quindi potranno visionare in ogni scuola, in ogni istituto, il mio film come lezione didattica, insieme ad altri chiaramente. Però al momento in cui si parlerà di quella fascia, di quel periodo storico, di questo tipo di attività lavorativa, i ragazzi vedranno il mio film e lo analizzeranno con metodi educativi, insomma come se fosse una lezione didattica. E questo secondo me è molto importante, perché i ragazzi spesso credono che il documentario sia una cosa pallosa, che hanno bisogno di avere effetti speciali e roba del genere, però se si fa un percorso, se si crea, ecco, la condizione giusta per diffondere bene il documentario, può essere un ottimo strumento per imparare qualcosa. Leggo sul tuo sito che Dallo zolfo al carbone è il documentario a basso costo più premiato del 2008. Cosa vuol dire il documentario a basso costo? Ecco, a basso costo vuol dire che non ho avuto una produzione alle spalle, ma la mia impresa cinematografica, la Onde Emotive, che ho fondato nel 2005, ho ricercato fondamentalmente dei finanziamenti sempre un po' alternativi, tra imprese locali, regionali, sono riuscito a mettere insieme un team di imprenditori giovani, svegli, che credono anche nella cultura, benché si dica spesso altre cose sulle imprese siciliane, e insieme al comune della mia città e una banca siciliana sono riuscito a tirar fuori una somma di 15.000 euro, che per un documentario, vi assicuro, non è tanto, soprattutto se girato in un altro paese, e con quella cifra siamo riusciti a realizzare il prodotto che sta circolando e che ha vinto numerosi premi ai festival di tutta Italia e all'estero. Quindi low budget in questo senso, perché 15.000 euro per realizzare un documentario internazionale non è tanto. Facciamo ora una brevissima... Prima di lanciare la pausa musicale, ci vuoi dire solo un premio, quello che ti ha fatto più felice, per cui sei maggiormente soddisfatto? Ma in realtà sono soddisfatto di tutti. Forse la gioia è stata quando sono andato in concorso al Davide di Donatello e ho ricevuto la nomination al Globo d'Oro come miglior documentario del 2008. Questi forse sono stati l'apice, insomma, dell'emozione arrivata in quei momenti lì. Però anche ogni singolo premio vinto, ogni singolo primo premio vinto è stata un'emozione fortissima. Siete nuovamente all'ascolto di Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento su Radio Alma 101.9. In collegamento questa sera abbiamo Luca Vullo, in collegamento dall'Italia. Luca è regista e parliamo appunto durante questa trasmissione in particolare di Dallo zolfo al carbone, film realizzato da Luca che verrà proiettato qui a Bruxelles venerdì 13 novembre alle ore 20.30 a Le Cercle des Voyageurs, un film sulla storia e le sofferenze degli emigrati siciliani in Belgio dopo gli accordi tra Italia e Belgio sullo scambio carbone e manodopera. Luca, leggo che per la realizzazione del tuo film ti sei avvalso non soltanto ovviamente delle testimonianze degli emigrati e degli ex minatori, ma anche della consulenza storica e socio-antropologica di una serie di esperti, Antonio Buttita, Anna Morelli, Girolamo Santocono. Ecco, ti vorrei chiedere, diciamo quindi, che prospettiva essi hanno aggiunto alla realizzazione del tuo film, e come il loro appunto contributo si inserisce con quello che hai, con le testimonianze raccolte dagli emigranti siciliani. Beh, è stato un apporto fondamentale, perché al momento in cui si racconta un documentario e si cerca di raccontare la verità solitamente, la consulenza storica e antropologica, sociologica di esperti di settore che lo hanno affrontato questo tema per diversi anni, ha dato, insieme alla prospettiva invece di sguardo diretto da parte dei minatori, protagonisti della storia, ha reso il quadro molto più completo. E devo dirvi che è stato per me anche una vera e propria lezione andare dalla professoressa Morelli o da Santocono, proprio perché comunque, conoscendo molto bene l'argomento, mi hanno in qualche modo fatto il quadro generale, dal quale poi ho preso i punti che più mi interessavano per creare la struttura del documentario. Quindi ritengo che sia fondamentale, al momento in cui si fa un documentario, soprattutto storico, affidarsi anche alla consulenza di esperti di settore. Vorrei ritornare nuovamente alle testimonianze che hai raccolto, quindi l'esperienza di questi giovani uomini che con le loro donne appunto arrivarono qui in Belgio a partire dal 1946. Che cosa ti hanno raccontato in tema dell'accoglienza che hanno ricevuto, come si sono trovati all'inizio, le problematiche che hanno dovuto affrontare in un nuovo paese, in una realtà profondamente diversa da quella che avevano lasciato, ossia la Sicilia? Sì, anche su questo ho fatto un capitolo del documentario. Chiaramente non hanno trovato una grande accoglienza, proprio perché arrivava una popolazione diversa, con usi e costumi differenti, e molto spesso non venivano messi in condizione di poter interagire con la società locale. Mi raccontavano delle cose atroci, per esempio i treni che arrivavano da Milano spesso, invece di arrivare in città, arrivavano direttamente nelle miniere, nei villaggi dove loro poi andavano a vivere, e quindi restavano totalmente isolati. La popolazione del posto sconosceva totalmente l'arrivo di queste persone. Quando poi l'integrazione era necessaria, perché comunque c'erano tanti ragazzi che volevano andare a ballare la sera o comunque volevano interagire un po' con il posto, con la gente del posto, nascevano diversi problemi, perché comunque, come dicevo prima, la storia si ripete. Quello che succedeva a loro all'epoca sta succedendo adesso in Italia. Erano visti come quelli che rubavano il lavoro da una parte, come i poveri disgraziati che invadevano il territorio, e c'era del razzismo. Lo hanno vissuto, è giusto che si dica che anche gli italiani hanno vissuto razzismo in Belgio 60 anni fa, perché adesso si parla tantissimo del razzismo degli italiani contro gli altri paesi, però ricordiamoci che anche noi abbiamo vissuto questo fenomeno, e in tutti i paesi dove esiste l'immigrazione purtroppo questo fenomeno esiste e c'è. Un vero viaggio di scoperta non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi. Com'è possibile, Luca, avere nuovi occhi? Bella domanda. Il senso di questa frase, che a mio giudizio è fantastica, è proprio il fatto di riosservare le cose da una prospettiva differente, che è più legata alla sensibilità di sguardo che all'angolazione. Io credo veramente che anche per me è stato un ritorno in Sicilia, perché io ho studiato per diversi anni a Bologna, e quindi nel mio piccolo sono stato un emigrato italiano in Italia, e al mio ritorno ho rivissuto una terra in un modo completamente diverso da quello di partenza, sia perché chiaramente sono cresciuto, ma anche perché ho affinato una sensibilità di sguardo che prima non avevo. E quindi sia le singole storie, sia i singoli personaggi, che è una storia del genere, la storia della miniera, che credo sia il mestiere più incredibile e terribile che l'uomo abbia inventato, non posso non raccontarla con gli occhi miei, che sono quelli che mi sono costruito con il mio background, con la mia esperienza. rivedere i posti con altri occhi vuol dire questo, secondo me, rileggerli però con una sensibilità differente. Secondo te il tuo documentario porterà, avrà la possibilità di far cambiare lo sguardo ai ragazzi, agli studenti a cui verrà mostrato? Tu prima ci citavi diverse scuole, diversi progetti anche in altre regioni che non sono la Sicilia, in cui il tuo documentario viene utilizzato o verrà utilizzato come strumento didattico. Prima citavi anche il razzismo che oggi si vede in Italia rispetto alle popolazioni emigranti. Dunque, il tuo documentario, secondo te, può servire a far nascere questi nuovi occhi, come dice giustamente Proust? Secondo me sì, perché il documentario lo vedo come un mezzo di controinformazione molto importante, e non soltanto il mio, in genere dovrebbe essere valorizzato molto di più anche nelle scuole come strumento didattico, perché i ragazzi molto spesso non le sanno queste cose, perché i libri che ci fanno studiare non sono quelli che raccontano tutta la verità, raccontano una versione dei fatti o comunque omettono molti fatti storici che invece sono importanti per capire dove stiamo vivendo. Al momento in cui si mostrano dei potenziali nonni che parlano a suo nipotino e gli raccontano che storia allucinante e terribile hanno vissuto per portare avanti la famiglia, qualcosa scatta, e questo l'ho visto nelle varie presentazioni, l'emozione credo che sia il motore principale nella vita, quindi se tu riesci a emozionare qualcuno con una storia, in qualche modo non se la dimentica più. Se serve o non serve, questo non lo so, io credo che sia molto utile, questo sicuramente, e continuerò a farlo, e spero che ci siano tanti documentari in giro e documentaristi in giro per il mondo che ci diano la possibilità di vedere la realtà dei fatti da prospettive diverse che ci danno solitamente le TV e altri canali mediatici. Qual è il tuo prossimo lavoro, Luca? Il mio prossimo lavoro, sto lavorando a un cortometraggio che sta per finire, di fiction, quindi ho fatto un salto dal documentario alla fiction, che però ha chiaramente delle reminiscenze documentaristiche, perché parte dalla realtà, da un'analisi della nostra società, e che si trasformerà in un lungo, per cui sono in questa fase di lavorazione del corto per poi realizzarne il lungo. E poi sto iniziando un progetto documentario sempre nella mia regione, anche questa è un'operazione molto interessante che parte proprio dalla gente che vuole, la gente di Caltanissetta in particolare, vuole analizzarsi, vuole radiografarsi per capire per quale motivo non hanno perduto l'identità come popolazione, siccome è un fenomeno molto forte che si sente in quella città, in quel paese del centro Sicilia, la gente sta creando un movimento di associazione che finanzierà il progetto, e quindi sarà un progetto finanziato dalla gente. Stessa tipologia di finanziamento che sto utilizzando per il corto, che ho utilizzato per il corto, e cioè un film prodotto dalla gente, che crede in me, che crede nel mio progetto, e quindi, se vogliamo, un po' fuori dagli schemi. Giunti purtroppo in chiusura, Luca, prima di salutarti vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che avranno l'opportunità di vedere il tuo film Dallo Zolfo al Carbone qui a Bruxelles il prossimo venerdì 13 novembre alle ore 20:30 a Le Cercle des Voyageurs in Rue de Grand Carme numero 18 in centro, vicino al Mannequin Peace. Quindi per avere ulteriori dettagli potete anche contattare l'organizzazione appunto di questo evento, l'Angolo dell'Avventura, contattando Marco Carnovale, carno.polo@gmail.com. Luca, noi ti ringraziamo tantissimo per essere intervenuto questa sera con noi, per avere condiviso l'esperienza che ti ha portato alla realizzazione di questo film. Io sono curiosissima di vederlo, per cui ci sarò sicuramente venerdì 13 qui a Bruxelles. Bene. Grazie, speriamo di riaverti ancora i nostri microfoni in futuro. Grazie, ciao. Andatela a vedere e spero di risentirvi presto. Grazie ancora. Grazie a te, Luca, e buona serata. Alessandra, ciao, noi non resta grazie. Che dare appuntamento ai nostri radioascoltatori a giovedì prossimo. Esatto, giovedì prossimo con un'altra puntata di Giro di Boa, come sempre il vostro programma di dibattito e approfondimento. A risentirci giovedì prossimo, ora in onda, Onde Corte.